coppia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Europa B 10, Oceania 0. Quest'altra è più bella perché è più combattuta. Batte America del Sud, Africa 8, America del Sud 6. Oceania 0, Europa B 11. Punto America del Sud. Batte America del Sud. Punto Europa B, Oceania. Geniale Nanni Moretti nel suo Habemus Papam, film del 2011, nell'immaginare i cardinali in Vaticano alle prese con un conclave a dir poco problematico che scacciano noie e preoccupazioni giocando a pallavolo nel cortile della Santa Sede. Ebbene, proprio del rapporto tra i papi e lo sport ci inducono oggi a parlare gli dèi dello sport, grazie a un bel libro intitolato proprio I papi e lo sport, oltre un secolo di incontri e interventi da San Pio X a Papa Francesco, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Grazie allora ad Antonella Stelitano, giornalista, componente della Società Italiana di Storia dello Sport e una delle curatrici del volume, per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, dottoressa Stelitano, a sfogliare il vostro libro si scopre che il rapporto tra Vaticano, papi e attività sportiva è quanto mai stretto e dinamico, a partire proprio dal pontificato di Pio X tra il 1903 e il 14, di fatto agli albori del secolo scorso. Pio X ebbe un'intuizione che, vista oggi, può sembrare una cosa normale. Per l'epoca fu assolutamente rivoluzionaria. Pio X spalancò proprio letteralmente le porte del Vaticano allo sport, perché nei periodi precedenti, grazie a Leone XIII, si era un po' sviluppato il sistema degli oratori, era stato un po' potenziato un discorso di associazionismo anche giovanile, e Pio X decide che ogni domenica i ragazzi degli oratori romani possono andare a fare dei saggi davanti al Papa, e da questo poi il Papa ebbe questo incontro voluto da De Coubertin, perché De Coubertin cercava il sostegno del Vaticano per l'idea di portare i giochi olimpici a Roma nel 1908, giochi olimpici che poi per ragioni di ordine economico Giolitti bloccò. È accaduto un po' quello che poi è successo nel 2012 con Monti e la candidatura di Roma per il 2020, che era stata poi bloccata dal governo per ragioni economiche. La stessa cosa era accaduta con Pio X, però poi è rimasto questo incontro e questa promessa di Pio X a De Coubertin di far vedere che la Chiesa comunque apprezzava questa idea dello sport. E quindi Pio X non solo apre agli oratori, ma promette a De Coubertin una manifestazione di carattere internazionale. E già parlare di sport a livello internazionale nel 1905 è qualcosa che è al di fuori dell'immaginario, insomma, collettivo. Però questa cosa avviene, quindi ci sono questi saggi da parte di oratori di vari paesi europei, e Pio X li accoglie nei cortili vaticani, assiste, e le cronache del tempo dicono che lui assista in maniera anche gioiosa, benedica questi ragazzi, li assista in maniera festosa, e qualche cardinale cominciava un po' a storgere il naso, perché questa cosa era al di fuori degli schemi. Un giorno un cardinale si fa coraggio, si avvicina al Papa e gli dice: Santità, ma con queste esibizioni, dove, con questi saggi sportivi, dove volete andare a finire? E lui gli risponde in dialetto veneto e gli dice: Caro Elo, in paradiso. Sarebbe a dire: Caro lei, in paradiso, cioè questa è un'attività che porta in paradiso, mica è un'attività da condannare. Restiamo in Vaticano, ma facciamo un salto nel 1960, anno dell'Olimpiade romana. Gran folla e sportivi di ogni disciplina provenienti da ogni continente in Piazza San Pietro a Roma per ascoltare la locuzione del pontefice. Giovanni Vigesimo III si è rivolto con paterna bonomia ai fedeli, alle migliaia di turisti e alle 100 e 100 delegazioni di atleti convenuti nella capitale italiana per lo svolgimento dei giochi olimpici. un esempio eloquente della universalità della Chiesa Cattolica e una testimonianza altissima del particolare significato e degli aspetti inimitabili della superba manifestazione romana. Benedisse così quei giochi Giovanni XXIII, ma venne poi un papa ancor più sportivo. Lo sport è sicuramente uno dei fenomeni rilevanti che, con un linguaggio da tutti comprensibile, può comunicare valori molto profondi. Alpinista, sciatore, grande appassionato di sport, insomma, Giovanni Paolo II, vero dottoressa Stelitano? Ma Wojtyla è l'atleta di Dio, viene un po' definito, perché lui aveva praticato molti sport quando era già anziano. Incontrando i vescovi polacchi, gli disse: voi dovete ricordarvi di me come papa, ma anche come sportivo, dovete ricordare sempre che io andavo in canoa, sciavo, giocavo anche a pallone, qualche volta mi spaccavo anche le gambe. Questo lui disse ai vescovi, e lo diceva da persona che trovava l'ispirazione anche per la riflessione durante le passeggiate in montagna o comunque fermandosi in canoa in un tratto isolato di un fiume per leggere il Vangelo. Quindi queste sono le immagini che ci lascia. Però era anche un uomo che in un particolare periodo storico aveva continuato l'opera che poi da Paolo VI era iniziata, di utilizzare anche lo sport come strumento per avvicinare le persone. Giovanni Paolo II lo utilizza come strumento per avvicinare i popoli e quindi non perde l'occasione quando incontra una squadra di un paese che era al di là della cortina di ferro dell'epoca, non perde l'occasione per auspicare un incontro, un invito, uno scambio tra squadre diverse, per dirgli magari mi farà piacere venirvi a vedere, venirvi a trovare. La stessa cosa che Giovanni XXIII aveva fatto con gli atleti che erano convenuti a Roma per l'Olimpiade del 1960, o che Paolo VI aveva già avviato quando dice che il suo interlocutore per lo sport dovrà essere il Comitato Olimpico Internazionale, perché con chi mai io potrei parlare di sport? Chi mai potrebbe essere il più grande interlocutore che il Papa può avere? È il Comitato Olimpico Internazionale. Quindi questa dimensione internazionale, universale dello sport viene poi portata avanti da ogni singolo pontefice, direi a partire forse da Giovanni XXIII in poi. Quindi nel periodo della Guerra Fredda si percepisce che lo sport dà questa possibilità di dialogo che magari è difficile in altri ambiti della vita sociale. Dietro i più grandi eventi sportivi poi si possono nascondere anche le più insospettabili rivalità papali. Sentite un po'. Ahí va Surle, Surle va a encarar a Mascherano. Ahí va Surle, mete la directa, le persigue Mascherano. Ojo al centro, el control. La finale dei due papi è stata definita quella Argentina-Germania, vinta per 1-0 dai tedeschi, che ha deciso l'ultimo mondiale di calcio in Brasile nel 2014, e componeva indirettamente l'argentino Bergoglio al teutonico Ratzinger. Ecco, a proposito di Benedetto XVI, anche lui durante il suo pontificato ha manifestato un'imprevista vena sportiva, giusto? Ma allora, papa sportivo nel senso di praticante, forse Ratzinger non lo è stato, anche se bisogna dire che Ratzinger ha la tessera della Federazione Ciclistica Italiana. Al di là di questo, però, già quando era arcivescovo di Monaco lui scrisse delle cose bellissime sullo sport, lascia pagine meravigliose, ed è stato poi il pontefice che per la prima volta ha inviato una delegazione del Vaticano a un congresso olimpico che è diciamo, ce ne sono stati 13 in tutto nella vita del Comitato Olimpico Internazionale, quindi è un evento importante che serve a definire a che punto è lo sport e dove si vuole andare, in poche parole. E Ratzinger è stato il Papa che ha mandato una delegazione del Vaticano in questa conferenza internazionale per portare anche il punto di vista del Vaticano, che riguardava non solo lo sport come strumento di educazione del singolo, ma anche lo sport come strumento, come si era detto, di solidarietà, di fratellanza, lo sport che serve anche per promuovere delle politiche a favore dell'ambiente. Quindi Ratzinger, benché non possa avere in noi lasciare la memoria di un papa praticante, in realtà poi ha lasciato sullo sport delle pagine molto belle. Nessun dubbio invece sulle passioni sportive di Papa Francesco, che così commentava qualche tempo fa il successo del suo club, il San Lorenzo de Almagro, nella Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana. Dopo il secondo posto del Brasile, è una buona notizia. E per me San Lorenzo è la squadra dalla quale tutta la mia famiglia era tifosa. Mio papà giocava nel basket di San Lorenzo. Con gioia, lo vivo con gioia. Sportivo non solo praticante, ma addirittura militante, mi viene da dire, Papa Francesco, vero Antonella? Ma noi l'abbiamo etichettato come il Papa tifoso. Come lei ha ricordato, un po' noi ce lo ricordiamo come tifoso del San Lorenzo de Almagro, quindi ha ricevuto la visita della delegazione quando ha vinto la famigerata Coppa, famosissima Coppa, però è stato anche il Papa che ha già benedetto la bandiera olimpica per Rio. E poi è rimasta un aneddoto anche sul fatto che lui abbia portato in chiesa, dopo essere stato eletto, abbia lasciato una maglietta e un pallone su un altare della chiesa di Roma, sulla quale era andato a pregare dopo la sua elezione. Quindi c'è un affetto per lo sport che lui stesso ha praticato, perché lui giocava anche a pallone, ha giocato con i ragazzi del suo quartiere, che era il quartiere del San Lorenzo, andava a vedere le partite. Lui ha vissuto lo sport come qualche cosa che è servito per la sua educazione, ma lo ha vissuto anche in termini familiari come un passatempo. Bergoglio ha dato un monito ai giovani, dicendo che i giovani devono seguire tre strade, quella dell'educazione, del lavoro e dello sport, perché lo sport dovrebbe rappresentare un po' quella dimensione gioiosa del proprio tempo, da dedicare a qualche cosa che serve anche per migliorare noi stessi. Lo sport ci aiuta a migliorare noi stessi, i rapporti con gli altri. Ecco, dottoressa Steritano, ci riveli un segreto, lei che ha studiato le carte. Per Papa Francesco è più forte Messi o Maradona? No, questa non credo che risponderebbe mai a una domanda come questa. Noi abbiamo messo nel nostro libro una raccolta di fotografie in cui il Papa è insieme ha incontrato Maradona, però ha incontrato anche moltissimi altri atleti, dagli atleti paraolimpici a dei giovanissimi, anche manifestazioni, insomma, l'ultima messa fatta a San Pietro per il mondo dello sport, lui ha incontrato i bambini che praticano sport, ha incontrato i grandi campioni, però l'affetto credo che sia lo stesso per tutti. C'è una foto che a me piace moltissimo, che abbiamo scelto, che è quella in cui due ragazzini piccoli, saranno delle elementari medie, vanno a un incontro con il Papa indossando la maglietta del San Lorenzo de Almagro. Questi sono due ragazzini argentini che hanno deciso di andare a vedere il Papa con questa maglietta. Il Papa, quando li vede, si avvicina a loro e gli dà la pacchetta sulla spalla e si ferma a chiacchierare con loro. E in quel momento, quella è l'immagine di che cos'è lo sport. In quel momento loro sono uguali, perché sono tifosi della stessa squadra e parlano di qualche cosa che li accomuna. Quindi due bambini e il Papa sono in quel momento uniti da una stessa passione e hanno qualche cosa in comune. E quale altra attività può mettere insieme dei bambini e il Papa a parlare di una cosa che hanno in comune? E questo è quello che lo sport riesce a fare, riesce a mettere insieme le persone più diverse e a farle in quel momento sentire, non dico uguali, ma comunque riesce a trovare un punto in comune anche tra persone completamente diverse. Antonella Steritano, grazie davvero per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui, ad Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time nobody. Siamo alla fine, allora tutti in piedi ad applaudire Sir Bradley Wiggins. L'ultimo giro, meno di 10 secondi ancora per lui, ed è sempre sopra 54,5. Forza Bradley, tieni duro la campana, anche se l'ora finisce dovrà fare comunque l'ultimo giro, 16,4. Lo sai com'è il regolamento? Bisogna fare un giro alla fine. No, si fa il giro e ti viene accreditato i metri che fai allo scoccare dell'ora. Allora, finito. E allora vediamo 54,531. Davvero il tempo non aspetta nessuno, come cantava Freddie Mercury, ma c'è qualcuno che a volte riesce a sconfiggerlo, il tempo, seppur per il breve spazio di un'ora, magari pedalando a folle velocità all'interno di un velodromo. Stiamo parlando dei campioni della bicicletta che hanno riscritto nei decenni la storia del ciclismo battendo il record dell'ora. L'ultimo, in ordine cronologico, l'inglese Bradley Wiggins, 35 anni, uno dei campioni più vincenti della storia delle due ruote, che il 7 giugno al Velo Park di Londra ha stabilito il nuovo primato, percorrendo in un'ora 54 km e 526 metri, e battendo così di ben 1589 metri il primato precedente, appartenente all'altro britannico Downset. Yeah, the elation's always the same after any race. You know, the relief, satisfaction that you broke it and that it's over. È stata una soddisfazione enorme battere il primato, non avevo dubbi, ma finché non è fatto non puoi darlo per certo. Forse avrei potuto far meglio, ma non oggi, con queste condizioni. Chi potrà battermi? Difficile dirlo. Ora, i record sono fatti per essere battuti, ma di sicuro ho dato il massimo delle mie possibilità in una sfida molto dura, ha commentato Wiggins, già oro olimpico e mondiale a cronometro e vincitore del Tour de France nel 2012. Una sfida che ha sempre affascinato i grandi del ciclismo, quella del record dell'ora. Il primo fu il francese Henri de Grange, l'11 maggio del 1893. Giuseppe Olmo, nell'ottobre del 1935, il primo italiano, con 45 km e 90 metri, al Vigorelli, a Milano, che fu anche il teatro dell'impresa di Fausto Coppi, recordman il 7 novembre del 1942, con 45 km e 798 metri. Poi, sempre sulla leggendaria pista milanese, si affacciò un francesino dal ritmo inesauribile. Jacques Anquetil parte per la sua ora di lotta da solo contro il tempo, per battere il record di Coppi, che resiste da 13 anni. 12.000 persone seguono con simpatia al Vigorelli il giovane francese e lo incitano nella sua dura fatica. Il prato è gremito di tecnici, corridori di ieri e di oggi, giornalisti di tutta Europa. Però dopo un promettente inizio, inanellando giri su giri sulla pista magica, la pedalata del corridore bretone si fa pesante. Ma solo cronometristi e specialisti si accorgono che il muro dei 46 km in un'ora non viene violato. Il valoroso corridore francese è di 600 metri inferiore al primato del nostro campione. Al secondo tentativo però, il 29 giugno 1956, anche Till non sbaglia. Con tenacia ammirevole dopo il fallito tentativo dell'autunno scorso, Jacques Anquetil attacca nuovamente il primato miracolo dell'ora conquistato da Fausto Coppi nel 1942. Sulla pista magica del Vigorelli è già scesa la sera e il giovanissimo corridore francese inanella giri su giri, accompagnato dall'ansia dei suoi suiveur e dall'incitamento della sportiva folla milanese. Sembra che non possa farcela. Sino all'ottantesimo giro il suo tempo è superiore a quello del campionissimo. Nei restanti 35 rosicchia 4-5 metri per giro al primato di Coppi. Negli ultimi chilometri è rabbiosamente scatenato, pigiando a volte sui pedali con strappi violentissimi. Sente ormai nelle gambe il prodigio del record e lo conquista nettamente. Jacques Anquetil, francese, 22enne, ha stabilito il nuovo primato mondiale dell'ora coprendo chilometri 46 e 159, migliorandolo di ben 361 metri. Oggi è il più veloce corridore del mondo. Ma il primato di Anquetil dura appena lo spazio di un'estate. Per 14 lunghi anni, il più ambito dei record ciclistici, quello dell'ora, portò il nome di Fausto Coppi, il campionissimo. Sembrava un primato inattaccabile, quando nello scorso giugno il francese Anquetil riusciva nell'impresa infrangendo il muro dei 46 chilometri. Ma già dai mondiali di Copenaghen si leva sul francese la minaccia di un nuovo fuoriclasse italiano. Ercole Baldini, vincitore dell'inseguimento dilettanti. Salutato come una rivelazione, Baldini appare già maturo per il grande evento. Il 19 settembre, sulla magica pista del Vigorelli, il dilettante italiano si lancia alla conquista del prestigioso record. Impeccabile nello stile, compostissimo, giro su giro Baldini si avvicina alla meta. Minuto per minuto il primato di Anquetil vacilla. I cronometristi stanno per sancire con loro inappellabile verdetto la vittoria del nuovo campione, con una misura che rasenta i limiti delle umane possibilità. Chilometri 46 e 393. Campana dell'ultimo giro. In un tripudio di folla esultante il formidabile atleta termina la tremenda fatica. Il record dell'ora è tornato in Italia. Altra data leggendaria nella storia del record dell'ora è il 25 ottobre 1972. Attenzione, messieurs les coureurs. A sfidare il cronometro sulla pista del velodromo olimpico di Città del Messico è il più grande di tutti, il cannibale, il belga Eddy Merckx, che stabilì il nuovo primato sfiorando i 50 km, percorrendo 49 km e 431 metri. Un record che resisterà fino al gennaio 1984, quando, sempre a Città del Messico ma su un'altra pista, ci sarà la duplice sfida di Francesco Moser. È stato una pietra miliare, certamente, perché diciamo che mi ha cambiato un po' la vita, perché ormai non ero vecchio, però ero verso la fine di carriera, perché avevo 32 anni nell'83, perché quando abbiamo deciso eravamo nell'83. E quando Paolo Sorbini, che è stato lui, diciamo, quello che ha voluto fare il record, mi ha chiesto: sei disposto a tentare il record? Sì, dico, ma il record non è che si fa dalla mattina. No, non ti preoccupare, io ti metto a disposizione tutta l'equipe. E allora siamo partiti da lì, ne abbiamo parlato nell'estate dell'83 e poi siamo partiti con tutto il programma, siamo andati a Città del Messico a vedere la pista, abbiamo deciso di correre su quella in cemento invece che quella olimpica e poi tutte le esperienze sull'allenamento, la prima volta che usavamo il cardiofrequenzimetro, poi la bici che la continuavamo a cambiare e provare, perché i primi allenamenti li abbiamo fatti al palazzetto di Milano e poi andavamo a Varese a fare le salite di forza e resistenza. Con una preparazione all'avanguardia, una bici avveniristica con le ruote lenticolari e il manubrio a corna di bue, ma anche col contributo del discusso professor Conconi, antesignano del doping ematico, Moser il 19 gennaio percorre 50 km e 808 metri e 4 giorni dopo, il 23 gennaio, porta il limite a 51 km e 151 metri. A distanza di 3 decenni da quell'impresa rimane nella memoria soprattutto la bici utilizzata da Moser, appositamente disegnata dal professor Antonio Dal Monte. Il fatto di accettare delle novità, comprenderle e metterci la sua faccia, questo è stato importante, perché è chiaro che senza le sue gambe e metterle in pratica. Perché non era mica facile metterle in pratica? Non era assolutamente facile, tant'è vero che quella diavolo di bicicletta con le ruote lenticolari molti l'hanno trovata difficilissima da pilotare, lui la pilotava bene. Ha accettato di avere una ruota più bassa davanti e di avere una bicicletta che era rigidissima, perché doveva essere rigidissima per non sprecare niente della sua energia. Ma proprio la peculiarità di quella bici porterà nel 2000 l'Unione Ciclistica Internazionale ad annullare quel primato e quelli successivi, realizzati da altri ciclisti con mezzi sempre più estremi e ora derubricati a migliori prestazioni sull'ora. Una decisione che aprirà un nuovo sentiero, percorso adesso da Wiggins e chissà da chi dopo di lui nel prossimo futuro. Puntata particolare quella di oggi di Olimpia, perché chiude di fatto il primo anno della nostra trasmissione. Allora un grazie particolare in regia ad Andrea Roccabella e a tutti i tecnici che si sono avvicendati con lui al mixer per permettere la realizzazione di Olimpia. Olimpia va sì in ferie, ma continueremo a tenervi compagnia durante l'estate con il meglio di Olimpia, le puntate più belle da riascoltare e da gustare nuovamente insieme. Potete continuare ad ascoltarci in podcast dal nostro sito radio24.it e a scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia torna comunque domenica prossima sempre alle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.